non abbiamo fatto altro che mettere dei numeri su una realtà che conoscevamo già, che diciamo almeno 45 milioni, io direi almeno perché probabilmente è molto più grande, quando avremo censito tutto il danno sarà molto più grande, diciamo è stata ed è ancora una grande notte della cultura perché ancora non ne siamo usciti, abbiamo ancora i teatri chiusi, abbiamo i cinema chiusi, anche il settore dei musei e delle biblioteche stenta a riavviarsi completamente, diciamo è una situazione grave che dobbiamo fronteggiare sapendo anche che è un settore dove ci sono tanti lavoratori intermittenti, atipici, precari che non hanno quelle coperture che hanno settori industriali più solidi o che ha il settore pubblico, quindi l'allarme è doppio rispetto a quello che abbiamo normalmente in Italia. Che peso ha la cultura nel bilancio complessivo dell'Emilia Romagna? Dal punto di vista della regione, come si sa negli ultimi anni è stato addirittura triplicato il bilancio per la cultura, quindi diciamo la regione si è abbastanza attrezzata, quest'anno poi non abbiamo diminuito i fondi nonostante le maggiori spese sanitarie e sociali, addirittura c'è stato un piccolo incremento per alcuni programmi straordinari che stiamo giusto realizzando, l'impegno pubblico c'è. Non basta però per il momento, c'è un problema di normative, il tema urgente secondo me adesso è, ed è anche la proposta del mio assessorato, è che bisogna, per quanto riguarda i teatri e lo spettacolo dal vivo, bisogna sostituire la distanza con le mascherine, in teatri che già hanno numeri piccoli che contribuiscono poco con la biglietteria e i costi dello spettacolo dal vivo, la distanza, il dimezzamento, oltre il dimezzamento dei posti fa sì che i teatri non potranno riaprire in condizioni economiche accettabili, questo sarebbe un disastro. E allora, così come adesso avviene per i treni e anche per gli aeroplani, immaginare che i teatri si possano riaprire senza l'obbligo della distanza ma con l'obbligo della mascherina potrebbe essere una soluzione, questa è la nostra proposta. Per musei e biblioteche il discorso è più semplice, per il cinema il giorno che fosse abolita la distanza i distributori ricomincerebbero a mettere sul mercato i film, perché questo è anche un problema che abbiamo. I distributori hanno paura a mettere di bruciare i nuovi film mettendoli sul mercato, insomma ci vuole in generale un atteggiamento di combattimento, ecco, non possiamo arrenderci al virus, dobbiamo combattere, nel convivere col virus ci sta anche il vivere, quindi dobbiamo essere attivi e combattere, ecco. Certo, quindi anche insomma le norme, i protocolli generali andrebbero secondo lei tarati a seconda del contesto, modificati in base appunto al singolo caso? Io credo che questa sarebbe una bella svolta ed è quello che ci chiede poi tutto il mondo dei teatri, dello spettacolo dal vivo e lo stesso mondo dei cinema. Questo potrebbe essere un'evoluzione importante. Chiaro che siamo sempre soggetti all'eventualità di una ripresa dell'epidemia, però per me è importante che dal primo ottobre i teatri possono riaprire e fare la stagione normale. Adesso se i teatri sono chiusi in estate è un problema, ma non è un problema grave come il fatto che non riapra la stagione. Ricordo che in tempi normali a quest'ora i teatri avrebbero già fatto la campagna abbonamenti, che è molto importante sia in termini di bilancio che in termini di cassa. Noi poi adesso abbiamo assunto alcune iniziative speciali per soccorrere un po' il mondo dell'arte in modo che gli artisti arrivino vivi ai prossimi appuntamenti della ripresa. Dunque abbiamo fatto questo festival viralissima che tra l'altro sta mostrando che la realtà musicale dell'Emilia Romagna continua a essere come storicamente molto vivace. Io stesso accendendo l'Epida TV o guardando lo streaming veramente ascolto dei gruppi che non conoscevo e che sono formidabili. Adesso metteremo in campo un bando per le nuove imprese dei giovani, finanzieremo fortemente tutti i progetti di sviluppo imprenditoriale, abbiamo messo molti finanziamenti sul cinema, che vuol dire non solo le grandi compagnie che vengono a girare qui ma anche i piccoli produttori della regione. Adesso stiamo studiando un programma per acquistare opere d'arte e metterle nella collezione della regione, così che la nostra collezione sarà più importante e artisti e gallerie potranno lavorare. Insomma, tanti piccoli provvedimenti che dovrebbero portare un po' di sollievo a un mondo che è stato molto colpito e naturalmente non esistono solo i grandi artisti che possono possono superare le crisi, esistono anche gli artisti che sono bravi ma non hanno quella forza economica per resistere a un'epidemia così lunga. E allora speriamo bene, perché insomma una vita per essere degna di essere vissuta ha bisogno anche di cultura, di bellezza. E bisogna combattere, ecco, questo è un po' lo spirito giusto, perché la cultura è anche capace di generare ricchezza, valori, quindi nel convivere c'è il vivere, quindi dobbiamo attrezzarci a fare una vita colta. E d'altra parte diversi segnali di ripresa ci sono, no? Diciamo una certa vivacità estiva si sta notando, ecco.